La voce al microfono. Innanzitutto due osservazioni che poi si prolungano un pochino per arrivare a alcune considerazioni aggrappate alla nostra riflessione. La prima osservazione è il solenne inizio della predicazione del precursore conferma l'intento di Luca, l'evangelista, l'intento di raccontare eventi storici. Lui, discepolo di San Paolo, che probabilmente non ha mai incontrato Gesù nella sua vita, come mai è stato affascinato e sedotto dalla predicazione di Paolo e dalla forza della sua parola? Luca, antiocheno, greco, colto, raffinato, ha scritto il suo Vangelo dopo Marco e in contemporanea con Matteo. Ci tiene Luca a dimostrare che non è corso dietro a delle favole, ma che il suo racconto si fonda su basi solide. Infatti, la descrizione della situazione geopolitica del tempo della predicazione di Giovanni ci incuriosisce noi, un po' figli dei codici da Vinci, e ci dice che non corriamo dietro alle favole, ma che la nostra fede si appoggia su basi di profondità di vita. Una seconda osservazione. Luca però dice anche: tutti i personaggi elencati, chi più chi meno, sono 7 o 8, distinguono il potere, se lo dividono, sono dei destinatori di popoli, si sentono o si credono, o magari qualcuno è anche grande. La parola di Dio scritta dribbla tutti i seguaci dell'epoca e si posa su un personaggio, un trentenne consumato dal vento del deserto, dal digiuno. Potremmo chiamarlo un folle di Dio, scontroso, arrabbiato, che si muove e parla sulle rive del Giordano. Già il profeta Baruch si rivolgeva al popolo disperso. Poi gli straccioni, ai senza speranza, parla a dei deportati che si trascinavano come schiavi in attesa di morire. È un sogno il loro, una speranza, qualche volta una lotta. Così è. La storia di Dio si sovrappone alla nostra storia, storia di uomini che qualche volta usano la parola del Signore come violenza. Nessuno conoscerebbe Erode se non avesse ucciso il Battista. Una piccola provocazione della donna esaltata. Voglio la testa di Giovanni Battista. L'interrogativo che viene spontaneo a noi. I nostri sogni, le nostre energie, la nostra audacia, è perché l'azione di Dio trasfiguri questa piccola e a volte violente storia degli uomini, che proprio perché è abitata da Dio diventa il sogno di coloro che camminano verso il regno. Qualche spunto di riflessione per noi che leggiamo il Vangelo, ma lo leggiamo oggi. La voce che grida nel deserto. Questa storia, quante storie, quante generazioni, quanta strada dell'umanità, quante vite di speranza, tutte racchiuse nella breve esistenza di un uomo, nella sua voce, nel suo messaggio. Voce che batte le coscienze, magari intorbidite, forse insipidite, perché mentre il seme che fa sporgere e sorgere nuova energia, la coscienza che dorme non produce nessuna energia. Non possiamo dirci in pace noi cristiani, credenti, Chiesa, non diventiamo questa voce se ci addormentiamo, se rinunciamo, se rimaniamo indifferenti. E che cosa dice questa voce? Preparate le vie del Signore, strade preparate altrove e altrove abbandonate, che sono un incontro con noi, perché non dimentichiamo mai che la salvezza è un sì dono, d'accordo, ma è anche un incontro. L'incontro non può essere senza di te. L'incontro avviene tra due volti. Ai cristiani di oggi è chiesto un orientamento e una sapienza più maturi, proprio perché l'insidia della rassegnazione, dell'indifferenza, della pigrizia della coscienza, depositata, disorientata, e il confronto con le situazioni diverse, domanda aperta intelligente, non pregiudizi. Avete sentito più volte ripetere nei testi di stamattina quello che Isaia descrive molto bene, la via santa, cioè dirupi, no? Ma mi sono chiesto qualche volta, ma che vuol dire? Che vuol dire? E la risposta che ho cercato di captare è santa, è valida, perché può essere percorsa da tutti, dai più disgraziati ai più esaltati. E chiudo. Ecco allora il coraggio di esserci nel deserto abitato. Il crescere della solitudine dentro la quale ogni cosa è livellata, è arida, dove non c'è speranza, dove non c'è patria, non c'è fatica nel vivere giorno per giorno. Esserci pertanto dentro di sé, coltivare il sogno di una umanità che Dio ha cominciato a costruire. Esserci dentro anche nel deserto. In questo momento, in questo tempo di parole mistificanti o vacue o interessate, non è il momento di tacere, ma sono i fatti, perché la via della salvezza sia santa, perché è percorribile da tutti, anche da noi, parlo di me, anche da me, povero peccatore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo.